gli 8 film in concorso, abbiamo un film di apertura, abbiamo un'anteprima italiana che viene dal Festival di Berlino, che è l'ultimo film di Gustavo Vinagre, si chiama Rosa Azul de Novalis, il brasiliano molto intenso sul Brasile di oggi attraverso il racconto autobiografico del protagonista, parlando appunto di corpo, di identità e anche, come dire, anche di un Brasile oggi abbandonato alle politiche omofobe, fasciste di Bolsonaro. Poi ci saranno gli altri film in concorso che attraversano in maniera trasversale temi quali l'intersessualità, la transessualità F2M, cioè da donna a uomo, e un documentario italiano, Io sono Sofia, un'opera appunto italiana in concorso che racconta la storia di transizione da uomo a donna. Avremo anche una serata, quella di venerdì sera, dedicata al sesso, alla sessualità e alla pornografia, al nuovo modo oggi di immaginare, di raccontare e di fare anche pornografia dalle donne e con le donne, non appunto rivolte ad un pubblico maschio eterosessuale, dunque un nuovo modo post porno e queer di essere pornografici. Avremo anche fuori concorso l'anteprima del lavoro Making of Love, che è un documentario che adesso in fase di finalizzazione, di un gruppo di studenti genovesi che vengono documentati proprio nella loro relazione con il sesso, e dunque proprio una libera, come dire, non è solamente, non parliamo di educazione, ma proprio di racconto libero e vero nella relazione con il sesso, attraverso un racconto assolutamente libero e privo di pregiudizi e tabù. Proprio rispetto ai film in concorso, poi ci sarà una giuria che assegnerà un premio al miglior lungometraggio in concorso. Questa giuria è composta da Adele Tulli, che è la regista, che era quest'anno a Berlino con il film Normal. Avremo Maria Silvia Fiengo, che è la fondatrice dell'Associazione delle Famiglie Arcobaleno, Rafael Maniglia, che è uno dei direttori del Festival Mix di Milano, e Giancarlo Zappoli, direttore di My Movies. Appunto, ci sarà dunque, questa giuria assegnerà il Gender Border Award, e poi ci sarà anche il premio del pubblico del cinemino, che andrà invece al film che avrà ricevuto più votazione dal pubblico presente in sala. Uno dei film di chiusura, avremo il film che ha vinto il Queer Lion a Venezia quest'anno, e Il Principe, che è un esordio della regia di Sebastian Munoz, un film molto intenso. Questo è fuori concorso ed è il film di chiusura del festival, dunque che andrà sabato sera alle 21, come chiusura del festival, un film molto potente che è ambientato nel Cile, alla vigilia dell'ascesa al potere degli end del 70, mette appunto in scena uno spaccato all'interno della prigione cilena, e dunque lavora molto sul concetto di corpo, di mascolinità e di relazioni maschili all'interno del carcere, in una società molto eterosessista. Ci lasciate in chiusura tutti i riferimenti internet per saperne di più? Va bene. Allora, abbiamo aperto le nostre pagine sulla social, sia su Facebook che su Instagram, Gender Border Film Festival, così come anche il sito dove c'è il programma, c'è i contatti, la giuria, un manifesto e anche una motivazione personale che abbiamo scritto io e Marco, su chi ci ha mosso proprio nell'organizzazione di questo festival. C'è il programma ovviamente e anche la modalità per fare i biglietti. Chi vuole venire al cinemino è un circolo, perché deve fare la tessera almeno 24 ore prima online, che poi ritira direttamente la sera stessa dei biglietti, per cui siete tutti quanti invitati. Gender Border Film Festival a Milano, al Cinemino, dal 7 al 9 novembre 2019. Un saluto e un ringraziamento ai direttori Marco Cassir e Marco Malfi Chindemi. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie, grazie, ciao, a presto, vi aspettiamo. Con Sergio Visinoni di Lab 80, il curatore, per parlare della rassegna Il Grande Sentiero, cinema, incontri su montagna, viaggi, avventure a Bergamo, Nembro e Lecco dal 9 novembre al 6 dicembre 2019. Sergio, ben trovato. Grazie mille, salve a tutti. Spieghiamo cos'è. È una rassegna cinematografica, ma non solo, perché ci sono anche degli incontri, della musica, degli eventi anche particolari che appunto racconta l'ambiente. Siamo partiti ormai 11 anni fa, perché siamo all'11ª edizione, parlando di montagna, ma piano piano il sentiero si è allungato sempre di più e gli argomenti sono diventati tanti, si sono ampliati. Quindi parliamo anche di viaggi, di avventure, appunto, di ecologia, e niente, lo facciamo attraverso i film in primo luogo. Però poi ci piace anche incontrare registi o alpinisti, viaggiatori. Il Grande Sentiero è un po' tutto questo. Com'era partito tutto? Da un'idea di proporre dei film un po' diversi, originali, su un tema specifico. E piano piano appunto si è ampliato, man mano cerchiamo ogni anno di intercettare delle proposte originali, delle cose poco viste e che possano appunto raccontare una realtà un po' inconsueta. Un'altra cosa che facciamo è fare una rassegna diffusa. Noi abbiamo come luogo principale del festival l'Auditorium di Piazza della Libertà a Bergamo. Però il Grande Sentiero è anche un sentiero proprio fisico, un viaggio del pubblico che lo segue prima in provincia di Bergamo, ma quest'anno, come hai già anticipato, siamo anche a Lecco, grazie a una nuova collaborazione con tre eventi allo Spazio Teatro Invito di Lecco. Quindi è una rassegna anche itinerante, e questo credo dalla prima edizione. Ci spostiamo appunto tra vari luoghi di Bergamo, Nembro in particolare, che è un paese, in prima provincia di Bergamo, e quest'anno appunto a Lecco. Come si articolerà questa edizione? Allora, abbiamo avuto una specie di anteprima il 23 ottobre con un film in auditorio in cui appunto abbiamo un po' inaugurato la stagione. Il vero e proprio inizio sarà questo sabato 9 novembre alle ore 21 al Palamonti, che è la sede del CAI di Bergamo, con un incontro con dei giovanissimi alpinisti bergamaschi: Gabriele Merelli, Samuele Morettini, Lorenzo Molettini, Giuseppe Caccia, che nell'ultimo periodo hanno fatto delle imprese particolari sulle nostre montagne, le Orobie, inanellando delle traversate estreme per lunghezza e per dislivello. Ci racconteranno un po' che cosa li spinge a questo tipo di imprese. Dopodiché, settimana prossima, inizia la rassegna cinematografica vera e propria da martedì, da prima con una serata con due film, un corto che si chiama Il Confine Occidentale e un documentario che si chiama Una casa sulle nuvole, entrambi sul tema dei rifugiati e dei migranti, perché anche questo spesso si incrocia col discorso della montagna, in particolare il confine occidentale parla delle rotte dei migranti in Val di Susa, che appunto attraversano il confine improvvisandosi alpinisti, a volte con anche grandi difficoltà e pericolo, mentre Una casa sulle nuvole parla di rifugiati afghani, in particolare una coppia di rifugiati che vive a Trento e che sperimenta la burocrazia italiana e la difficoltà della loro conduzione. Poi ci allarghiamo, il Grande Sentiero quest'anno diventa anche lunga rotta, perché abbiamo una serata tutta dedicata alla vela, con la presentazione di un libro, Un anno in barca stop di Erika Jopp, e la presentazione di un film che appunto in Lombardia non è ancora passato, ma credo che sia la seconda visione in Italia, che si chiama Maiden. È una storia molto interessante del primo equipaggio tutto femminile in una regata intorno al mondo. È una vicenda degli anni Ottanta che viene raccontata in questo film appunto appena uscito, che si chiama Maiden, un film inglese. Poi abbiamo un appuntamento che riguarda le biciclette. Qui sarà un incontro con due ciclo viaggiatori estremi, Angelino Minali e Davide Tondonella, che hanno appunto quest'estate, anzi Minali è appena tornato da un viaggio andata e ritorno in Iran, a Teheran, e ci racconteranno dei loro viaggi. E la settimana si conclude con la presentazione del film Chaco di Daniele Calcaterra, alla presenza del regista che risponderà poi alle domande del pubblico. Questo è interessantissimo, parliamo di ambiente, parla della sfida impossibile del regista stesso per creare una riserva naturale integrale in Paraguay. Questo si concluderà sabato con un incontro sempre su questi temi aperti dal film Chaco, con un incontro nella sede del Parco dei Colli di Bergamo, in Valmarina, proprio su questi argomenti, che abbiamo chiamato A Walk on the Wild Side, rubando il titolo a Lou Reed e ai Velvet Underground. Appunto sarà un incontro con diverse esperti, tra geografi, biologi, sociologi e anche ambientalisti, sul tema proprio della natura selvaggia. Se ha ancora senso parlare di natura selvaggia, soprattutto in un territorio antropizzato come il nostro, e quindi rifletteremo su questo. Dopodiché appunto ci sarà una parte a Nembro e con incontri interessantissimi con alpinisti, e la chiusura a Lecco con delle proposte cinematografiche di documentari. In particolare proporremo Chaco ancora, ma poi chiuderemo in particolare con Return to Mount Kennedy, una storia interessantissima che mischia il tema appunto dell'alpinismo con la politica, perché si parla proprio della famiglia Kennedy, con, sembra strano ma le cose si sposano davvero, con il movimento grunge americano. È una cosa molto particolare che credo piacerà molto. Ci lasci tutti i riferimenti internet per la programmazione? Tutto il programma si trova sul sito www.labottanta.it e anche su www.ilgrandesentiero.it, quindi è molto semplice, con la Bottanta, con 80 in numero, e lì si trovano tutte le indicazioni per consultare il programma. 11ª edizione del Grande Sentiero, rassegna di cinema, incontri su montagna, viaggi e avventure, a Bergamo, Nembro e Lecco dal 9 novembre al 6 dicembre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Sergio Visinoni di Lab 80, che ne è curatore. Sergio, un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Crepi il lupo, grazie mille. La regista Benedetta Argentieri sul suo documentario I Am the Revolution, a Roma allo spazio Apollo 11, 12 e 13 novembre 2019. Benedetta, ben trovata. Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Ci racconti la storia di questo film, di cosa si parla? Il film parla di tre donne che portano avanti una rivoluzione di genere nonostante il contesto. Che cosa vuol dire? Che sono tre approcci molto diversi a un femminismo in dei contesti che sono estremamente complicati, cioè la guerra. Le tre donne vivono in Iraq, a Rojava e in Afghanistan, e hanno degli approcci molto diversi, come appunto vi potete immaginare. A Rojava c'è la lotta armata, e in Iraq Yanar Mohammed porta avanti una lotta contro il delitto d'onore, quindi attivismo, e mentre in Afghanistan Salai Ghaffar, la prima portavoce donna di un partito laico, dell'unico partito laico in Afghanistan, e quindi ha un approccio molto più politico. Sì. L'idea era di raccontare appunto come comunque ci sono diverse maniere, diverse pratiche per la lotta, e soprattutto che comunque ognuno lavora nel contesto in cui è, scusami. Com'era nato il progetto? Il progetto è nato perché io faccio anche la giornalista, e negli ultimi anni, dal 2014 in avanti, ho viaggiato molto in quelle zone e mi sono resa conto che comunque i media mainstream raccontavano le donne o da vittime, perciò totali, nel senso che non dovevano essere aiutate, che siano di violenza, raccontavano solo di violenza, eccetera, oppure, soprattutto con Rojava e con la lotta di Rojava, avevano una, diciamo così, la combattente sexy, quando in realtà io mi sono resa conto, viaggiando, parlando con le persone, che in realtà ci sono tante donne che hanno, diciamo così,

significato artistico che è la figurina del gesso, diciamo cresce immerso in questo ambiente e poi emigra prima in Francia e poi negli Stati Uniti, dove in breve tempo diciamo diventa un importantissimo proprietario di cinema e di teatri, dove si esibiscono anche artisti molto importanti. E la cosa che ci interessa è in parte questo lato diciamo del successo, un po' anche del sogno americano, ma naturalmente a noi interessava soprattutto vedere come questa è una delle tante esperienze di emigrazione, come ci parla di tutte le altre esperienze spesso dimenticate, e in parte anche perché questo Poli diciamo rimane un rappresentante, una punto di riferimento per la working class nella East Coast degli Stati Uniti, quindi insomma non è soltanto una storia di successo, ma è anche una storia che parla all'immigrazione italiana nel mondo e a una industrializzazione spesso selvaggia che si verifica tra fine 800 e inizio 900 in quelle zone degli Stati Uniti, di cui invece lui appunto prova diciamo tra virgolette a dare anche un volto umano, facendo accedere, anzi incoraggiando la classe operaia locale ad andare in questi cinema meravigliosi dove manteneva dei biglietti molto bassi. Questo in breve è la storia di Poli, che noi raccontiamo attraverso due dei suoi eredi, uno in Connecticut che si chiama Tim, un bisnipote, e la nipote di una delle sorelle che era rimasta qui in Toscana e che poi emigra invece in Scozia. Quindi diciamo queste due storie attuali che provano ad andare alla ricerca di questo antenato, e oltre a questo naturalmente poi abbiamo intervistato anche degli storici che ci hanno aiutato a raccontare quel periodo, che è un periodo molto importante sia per la storia dell'emigrazione che per la nascita del cinema. Com'è cominciata la storia di questo documentario? Da un incontro diciamo tra me e il regista Valerio Ciriaci. Io avevo scovato questa storia diciamo perché studiavo in Connecticut, stavo facendo il dottorato là e mi ero imbattuto nella storia di questo italiano e diciamo mi si erano rizzate le antenne, mi ero incuriosito, e Valerio e Isaac avevano appena finito nell'estate del 2015, era uscito il loro film precedente di cui avevamo parlato un po' di anni fa anche a Radio Onda Rossa, I Folli a Wild and Warrior, e mi era piaciuto molto il film, ne avevo parlato e quindi scrissi a Valerio e gli dissi di vado a fare due chiacchiere e capire se ti va di provare a fare un film insieme. Insomma è nato in parte con una casualità, in parte perché questo a tutti e due ci è sembrato subito questo personaggio un personaggio notevole. Ecco. Come avete poi pensato di strutturarlo? Che ricerche avete fatto? Ci siamo mossi su più fronti, diciamo. In primis naturalmente archivi e biblioteche sia in Connecticut, a New York, nelle zone dove ho operato là, sia poi invece lavorando sul locale in Toscana, andando negli archivi dei comuni che sono dei posti meravigliosi, spesso semi dimenticati. Poi naturalmente oltre a questa parte storica si è aggiunta le qualità e l'arte dello storytelling del regista Valerio. Io appunto più da storico non avevo la testa diciamo per invece unire a questo delle storie contemporanee e cercare di capire invece come intrecciare il passato e il presente. Ecco, proprio a questo proposito chiediamo a Valerio che forma ha deciso di dargli. Come diceva Luca, abbiamo cercato di tenere insieme micro e macro storia, e quindi abbiamo Tim e Luana, questi parenti lontana e discendenti di Zeffirino, che sono un po' i nostri occhi nel presente. Con loro andiamo a visitare i teatri abbandonati, ne abbiamo trovati qualcuno nel Connecticut, e i posti diciamo simbolo, i luoghi simbolo della vita e della carriera di Zeffirino. E poi abbiamo i storici con i quali appunto raccontiamo il periodo storico. Abbiamo Piero Biagioni, Luca, per parlare dell'emigrazione italiana, in particolare lucchese. Abbiamo Catherine Oberdeck su tutto quello che riguarda il suo passaggio invece a New York, la sua carriera da scultore, del gesso, della cera e poi del cinema. E poi abbiamo Anthony Riccio, che è a New Haven, ci parla appunto del contesto italoamericano, delle comunità italoamericane di New Haven, di cui poi era un punto di riferimento. E insieme a questo appunto abbiamo lo stesso Zeffirino, che in qualche modo è la nostra guida, perché lo abbiamo animato grazie all'aiuto di uno studio di animazione di Milano che si chiama Avansguardi, con loro abbiamo ricreato questo zeffirino animato che si guida nel film attraversando anche fotografie d'archivio, video storici dell'epoca. Quindi abbiamo, ecco, questi due elementi che si uniscono, passato e presente, appunto girato da noi e le animazioni. Che impressioni avete ricavato da questa ricerca? Sorpresa, appunto, perché dalla storia di Zeffirino è una storia che ha dell'incredibile, ed è incredibile che non sia stata mai stata raccontata finora. C'è anche soddisfazione nel raccontare una storia che non era mai stata raccontata finora e fare giustizia appunto alla storia di questo italiano emigrante che è diventato uno dei più grandi impresari teatrali degli anni 20 in America. Aggiungo che ci è sembrato fin da subito, diciamo, che la vicenda all'estero sia ancora una storia di cui si parla in parte, diciamo, molti di noi in Italia hanno parenti o diciamo anche alla lontana all'estero, ed è una storia che sta lì ma che si affronta relativamente poco. In un certo senso per noi questo era anche, tra virgolette, una scusa a parlare di un personaggio che ha avuto successo, un personaggio famoso, eccetera, per provare a far luce su invece molte altre storie individuali che tendiamo a dire potrebbero invece insegnare moltissimo su anche la situazione contemporanea dell'emigrazione e dell'immigrazione, perché ormai insomma tanti noi, io compreso, e i miei due compagni di viaggio abitiamo all'estero, e quindi per noi appunto non era soltanto raccontare la storia di Silvestre Zeffirino Poli, ma capire come questa storia parla a molto altro, ecco, anche alla storia del cinema, insomma questo è un aspetto non secondario. Lui intercetta tutta l'età gloriosa del cinema americano, dai primi esperimenti di Edison negli Stati Uniti fino a gloriosi anni 30 della Hollywood classica. È un pioniere del cinema americano, e anche nei libri di storia del cinema americano se ne parla pochissimo. Che sarà adesso? Che percorso farà il documentario dopo Firenze? Beh, adesso appunto c'è questa anteprima il 6 novembre al Festival dei Popoli, e dopo vedremo, insomma, il film attualmente è autodistribuito, quindi speriamo di organizzare in futuro, magari ecco in primavera, quando riusciremo a organizzare un prossimo viaggio in Italia, tour di proiezioni indipendente qui in Toscana sicuramente, ma anche insomma in giro per l'Italia, speriamo di portarlo a Roma anche. Poi c'è tutto il versante americano, sul quale adesso stiamo aspettando delle risposte da alcuni festival americani, e lì appunto contiamo di portarlo in giro nelle zone in cui lui, Zeffirino, aveva questi bellissimi teatri. In particolare ce n'è uno che anche era una delle scene del film a Waterbury, che è un cinema che è stato recuperato. E lì sarebbe bello fare una proiezione di questo bellissimo cinema di Zeffirino, quindi di portare Zeffirino all'interno di un suo stesso cinema. E quindi niente, insomma, sarà insomma, in divenire nei prossimi mesi. E, ecco, punto di partenza è questa proiezione a Firenze il 6 novembre. Il documentario Mr. Wonderland. Un saluto e un ringraziamento all'autore e produttore Luca Peretti, al regista Valerio Ciriaci e al produttore Isaac Lipsin. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. A presto, grazie, ciao. Con Donatello Fumarola, uno dei produttori del film Gli ultimi giorni dell'umanità in crowdfunding, un film di Enrico Ghezzi e del collettivo Malastrada. Donatello, ben trovato. Ciao Federico, ben trovato a te. Ci racconti di questo progetto? Certo, Secedence è il nome della redazione del sito internet del gruppo, diciamo, che abbiamo creato. Titolo per ora del film è Gli ultimi giorni dell'umanità, direttamente diciamo rubato da Karl Kraus e dal suo spettacolo scritto pensato per i marziani, detta di Kraus, che aveva una durata tipo di due mesi, una cosa del genere. Excedence nasce da un'invenzione di Alessandro Gagliardo di Malastrada Film, che è il coautore del film, cioè Enrico, perché a un certo punto dall'archivio di Enrico, che è il materiale da cui verrà fatto il film, archivio di immagini e video che Enrico ha filmato dal diciamo fine 70, primi anni 80, con l'apparizione delle prime videocamere diciamo da casa, fino all'apparizione degli smartphone, quando Enrico ha smesso di filmare, ci sono 700 ore di tutto, casa, famiglia, le figlie, i festival, i set da Bertolucci, Olmi, c'è di tutto, cene con Cimino che imbruttisce Enrico perché filma la cena e quindi tutta la discussione verte sul fatto del filmare i momenti del quotidiano, mentre Cimino dice no, il cinema va preparato, ci sono varie perle. E l'invenzione di Alessandro è stata, di fronte a questo materiale, a un certo punto, a giugno scorso, ci siamo inventati una cosa che era una manovra, noi l'abbiamo chiamata, dove tutto il gruppo di lavoro, sono circa 15 persone, ci siamo ritrovati in un posto a Roma e abbiamo costruito una regia video dove c'erano 5 postazioni di montaggio che entravano nella regia al posto di camere, cioè al posto la regia di ricevere dei segnali di telecamere riceveva il lavoro di ogni singolo montatore che faceva su un pezzo d'archivio. Tutto questo ha prodotto quello che noi chiamiamo un'eccedenza rispetto al materiale originario, che sarà la materia del film. Quindi non solo la ripresa fatta, che ne so, sul set di The Dreamers, piuttosto che in casa con Aura o Martina, ma una cosa ulteriore che non è solo frutto di montaggio, ma di un trattamento, di uno stravolgimento delle immagini in modo abbastanza estremo. Quindi questo era un po' per, diciamo, collocare vagamente Eccedence, che poi è diventato il sito, che è quello da cui c'è la raccolta fondi, che spiega un po' il progetto, con qualche filmato, molti testi, delle immagini, delle fotografie che ha fatto Luca Anzani, che è un grande fotografo napoletano a cui abbiamo chiesto di seguire la lavorazione. E la macchina messa in piedi, quando abbiamo fatto questa prima manovra, l'abbiamo chiamata la macchina che cattura l'eccedenza, per quello Eccedence. Ci racconti anche di questi incontri, di questo lavoro insieme tra Enrico Ghezzi e i Malastrada? Con i Malastrada noi abbiamo cercato, in anni non troppo felici per Fuori Orario, di fare una collaborazione prendendo il loro materiale. Loro lavorano sull'archivio da più di 10 anni e hanno fatto un lavoro sul repertorio, nel loro specifico era quello legato alla Sicilia e alle televisioni private siciliane che Alessandro, diciamo, si era girato tutte, quantomeno quelle della zona di Catania, acquisendone letteralmente gli archivi e poi facendo una sorta di discorso antropologico, per cui uno dei loro film, uno dei pochi loro film realizzati, che si chiama Mito Antropologico Televisivo, cercava di ricostituire una sorta di mappa antropologica di un territorio, in quel caso la zona del Catanese, attraverso un tipo di montaggio che era molto vicino a quello che facciamo nel Fuori Ora, cioè dove l'intervento era minimo. Cioè, non veniva trattata il repertorio in modo come se fosse materiale fiction, ma come documenti, e il lavoro dell'autore è a sparire, diciamo. Quindi c'era già una sorta di sensibilità comune e condivisa. Poi noi abbiamo avuto con Zomia una collaborazione con loro a tutto campo, compresa la distribuzione, e a un certo punto, quando è naufragata l'idea di fare qualcosa Fuori Orario prima la strada, Alessandro ha detto: ma perché non facciamo un film a partire dall'archivio di Enrico, che non esisteva, cioè l'abbiamo fatto quest'anno praticamente. E da lì Enrico ovviamente ci si è buttato a capofitto, abbiamo cercato in piena autonomia finora di creare le condizioni di lavoro che sono non tanto quelle materiali, cioè sono anche quelle materiali, ma più una condizione un po' di spirito, sia attraverso le persone che ci lavorano che attraverso il modo e i modi di lavorare affinché sono tutt'altro che convenzionali. Non era possibile farlo altrove per la rigidità dei vari sistemi e apparati, quindi ce lo siamo fatti da soli. Ora stiamo cercando da vari mesi danari, quindi disperatamente un po' ovunque, dal crowdfunding a Rai Cinema, a finanziatori privati, qualcuno ci ha già dato qualcosa, tipo Martone, Servillo, insomma varie figure amiche che ci stanno dando una mano così, noi stessi diciamo foraggiamo. È nato un po' su questa comunione di, secondo me, elettiva, un po' gruppo di affinità. L'unico modo oggi, in questo presente molto irregimentato, di farlo ci è sembrato essere questo, e ci sembra ancora essere questo, perché se poi ti vuoi andare a infilare in qualcosa di più strutturato ci vorrebbero tipo 10 anni per farlo, noi invece abbiamo la necessità di farlo in 6 mesi. Ci dai in chiusura nuovamente tutti i riferimenti internet per contribuire? Volentieri. Allora, il sito è ecce.dance, cioè forse esserci.it.com. Alessandro si è creato questo punto dance come dominio, e da lì parte il piacere per ognuno di navigare i materiali che sono nel sito. C'è una parte che si chiama denari, uno dei menu, dove chi vuole, chi può, può partecipare in base alle possibilità di ognuno. Stiamo ancora studiando bene, in realtà è già dichiarata che cosa viene dato in cambio di ogni singolo intervento. E non te lo saprei dire io in questo momento, però è scritto tutto nel sito. Questo. Gli ultimi giorni dell'umanità di Enrico Ghezzi e del collettivo Malastrada Film, per la campagna di crowdfunding, un saluto e un ringraziamento al produttore Donatello Fumarola. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, ciao, in bocca al lupo anche a voi. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.